Tutta la storia romana vicina e lontana mi par di sognar. Se fra i ruderi che son lì da millenni la notte e il dì, io mi metto a fantasticare così. Alle terme di Caracalla i romani giocavano a palla. Dopo il bagno verso le tre, tira tira me che la tiro a te, o con le mani o coi piedi. Alle terme di Caracalla, forse i pesci venivano a galla, ogni notte verso le tre, tira tira me che la tiro a te, poi si pescavano da sé. Poi ripenso agli orazzi e coriazzi, ai guerrieri che non ci son più, a Poppea, a Nerone, ai patrizi, ma non so Caracalla chi fu. Alle terme di Caracalla i romani giocavano a palla, dopo il bagno verso le tre, tira tira me che la tiro a te, e poi gridavano le. Oggigiorno però a Caracalla una furtiva lacrima nella notte si sente cantar, una voce poco fa come un eco risponde alla folla. Chi mi frena in tal momento? Caracalla si mette a gridar. Alle terme di Caracalla al ritorno cantiamo insieme, caro caro ben, caro caro ben, sempre felici sarà.